24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura, come ovvio, le novità dalla crisi economico-politica europea. In serata c'è stato a Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri straordinario sulle misure anticrisi da adottare, mentre esponenti di opposizione sono saliti al Quirinale per un giro di contatti informale con il Capo dello Stato, che oggi vedrà invece la maggioranza. Il tutto alla vigilia del G20 di Cannes e della riunione della BCE guidata da Mario Draghi. Inoltre parleremo delle ultime novità di cronaca che coinvolgono Julian Assange, fondatore di Wikileaks, e della classifica dei paesi più esposti alla corruzione. In vista del vertice di Cannes, i leader dei paesi di Eurolandia che fanno parte del G20, Italia, Francia e Germania, più la Spagna, invitata al summit, si dovrebbero incontrare questa mattina prima del vertice con i responsabili delle istituzioni europee. In serata invece si è tenuto un vertice tra il presidente francese Sarkozy, la cancelliera tedesca Merkel e il premier greco Papandreou. La Grecia deve rispettare gli impegni, su questo non si transige a meno che non scelga un'altra strada, quella del fallimento. Niente scherzi, l'Eurozona non vuole essere ostaggio delle urne elleniche. Il referendum in dicembre fa tremare tutti, allontana pure i cinesi dall'ipotesi, cautissima ipotesi, di investire di più in titoli sovrani. E questo è il messaggio che Merkel e Sarkozy consegnano questa sera al premier greco Papandreou, cena di lavoro, più che altro un semiprocesso, con l'accusa di far pagare agli europei un azzardo di politica interna. Non c'è alternativa, se Atene vuole continuare a ottenere i prestiti, ci vuole chiarezza, chiede la cancelliera Merkel, mentre Obama conferma la priorità della riunione del G20 è la crisi del debito in Europa. E la crisi del debito comprende in pieno l'Italia, sospesa fino a sera per le decisioni che dovrebbe prendere il governo. Dal forum G20 del business, la presidente di Confindustria Marcegaglia lancia l'ultimo appello a Berlusconi: non è più il momento della lista delle cose da fare, urgono scelte di riforma vera, effettive, dimostri di essere in grado di decidere, il paese è in pericolo. Da Cana Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Antonio Pollio Salimbeni. Mercati europei in netta ripresa dopo la giornata nera di martedì. La migliore è Piazza Affari. Il FTSE MIB sale del 2,31%, Francoforte più 2,25%, Londra più 1,15%, mentre Parigi ha chiuso invariata. Piazza Affari prova a riprendere fiato in una seduta comunque dominata dal nervosismo. Dopo i recenti scivoloni, la borsa milanese ha messo a segno un recupero del 2% sul FTSE All Share e del 2,31% sul FTSE MIB, mentre gli operatori attendono indicazioni dalle autorità nazionali ed europee sulle soluzioni per contrastare la crisi del debito. Si è comunque trattato principalmente di ricoperture tecniche che hanno premiato i titoli che più avevano perso di recente. In evidenza quindi le banche, guidate dal più 7,3% di Unicredit e dal più 5% di Intesa San Paolo. Recupera anche la Galassia Fiat, aiutata dai dati positivi sulle vendite di Chrysler negli Stati Uniti in ottobre. Fiat SPA ha guadagnato il 3,2%, Industrial il 3,7% e l'azionista di riferimento Exor all'1,6%. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri sera in Italia si è tenuto a Palazzo Chigi un Consiglio dei Ministri straordinario sulle misure anticrisi da adottare, mentre le opposizioni sono salite al Quirinale per contatti informali con il Capo dello Stato. Oggi Napolitano vedrà PDL e Lega. Nel frattempo la Grecia va avanti. Il governo ellenico ha deciso di appoggiare la proposta di referendum sulle misure anticrisi che era stata avanzata dal premier Papandreou. La consultazione avrà luogo il prima possibile e intanto il governo ha cambiato anche i vertici militari. Ma perché Atene vuole il referendum? Sentiamo l'analisi di Vittorio Darold. Il motivo per cui Papandreou, che da 2 anni e mezzo naturalmente sta cercando di convincere la sua popolazione che è corretto farsi aiutare dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario in cambio di riforme strutturali, cioè è un referendum sull'austerità, ha deciso di fare questo perché è da mesi attaccato dall'opposizione di centrodestra che lo accusa di aver svenduto il paese agli stranieri, cioè di aver ceduto la sovranità popolare. È vero, è un sistema assolutamente democratico, un sistema probabilmente la democrazia diretta, nata proprio ad Atene poi. Il problema è che questo si terrà ai primi di gennaio del 2012. È possibile continuare ad avere un'incertezza di questa misura, di questa entità? Ricordiamolo, il debito greco è di 357 miliardi di euro, cioè è 5 volte quello che fece il default nel 2001 l'Argentina.